Buonasera a tutti e a tutte, anzi prima a tutte, che non solo per rispetto di genere ma per la quantità di maggioranza, e poi anche a tutti. Non è la prima volta che ci incontriamo qui per parlare di Brasile e stasera è una giornata particolarmente interessante perché abbiamo un ospite illustre che è il padre Marcelo Barros, ma non sono io che devo dirlo a voi perché la vostra presenza qui sta a testimoniare che sapete bene che non si poteva perdere questa occasione. E io devo dirvi, e lo dico con atto di grande affetto a tutti gli amici brasiliani e alla colonia brasiliana di Roma, che stasera devo stare in altro impegno programmato da tempo. Però mi è sembrato, dopo aver visto padre Barros e altre persone e aver toccato con mano l'affetto che ha portato qui tanti di voi, che il presidente della Fondazione Basso non potesse mancare a questo appuntamento. Quindi è veramente con vero piacere e interesse che io passo la parola innanzitutto a Claudia Fanti, che presenterà padre Marcello e condurrà questa giornata che sarà, io credo, a differenza di altri momenti, molto interattiva, nel senso che sarà data a tutti voi la possibilità di interloquire, fare domande, chiedere notizie. E oltre all'affetto e alla stima per padre Barros, abbiamo tutti quanti non la generica curiosità, ma proprio una inquietudine dentro per ciò che sta accadendo in Brasile, che certamente porterà tutti quanti voi a bombardare padre Barros per sentire le notizie, le sue valutazioni. E io credo, per quel poco che lo conosco, avendo letto recentemente suoi scritti, anche la sottolineatura della speranza che pur in questo momento di grande difficoltà deve essere quella che ci spinge a continuare con tenacia in Brasile, in America Latina, ma ahimè, come vedete, anche in Europa e in Italia, a tener fede al rispetto della persona umana, degli altri, dei diversi. La nostra bandiera, come sempre, è il diritto umano, il diritto delle persone e il diritto dei popoli. Claudia Fanti, prego. Buonasera a tutte e a tutti. È veramente un grandissimo piacere avere qui con noi Marcelo Barros, monaco benedettino, biblista, teologo della liberazione, e tra i teologi della liberazione, questo lo dico sempre tutte le volte che ho occasione di interagire con lui, è proprio uno di quelli che si è mantenuto più fedele all'ispirazione originaria della teologia della liberazione, intesa, come si diceva, come atto secondo rispetto all'atto primo della prassi a fianco dei poveri, insieme ai poveri e per i poveri, una riflessione che quindi nasce dalla pratica. E questo Marcello lo ha fatto sostenendo, appoggiando, accompagnando, anche criticando quando era necessario le comunità di base, i movimenti popolari, i gruppi di resistenza, soprattutto in Brasile ovviamente, ma anche fuori quando ce n'è stata l'occasione. A me oggi mi è stato chiesto proprio di interagire con Marcello ponendogli diverse domande prima di lasciare la parola a voi, però vorrei entrare nella tematica del Brasile, diciamo, prima attraverso l'ultimo libro di Marcello, che è Don Helder, Il dono della profezia. Marcello ha collaborato a lungo con Don Helder Câmara come segretario dell'ecumenismo, da lui è stato ordinato e da lui ha ricevuto l'ultima raccomandazione in punto di morte, quella di non lasciar morire la profezia. La profezia Domelder Camara l'ha vissuta nell'arco di tutta la sua vita, con il ruolo da lui giocato all'interno del concilio e poi ancora nella conferenza di Medellin, che è stata un po' la traduzione del concilio in America Latina, è l'atto di nascita di una chiesa latinoamericana, di una chiesa della liberazione latinoamericana, e durante il suo ministero episcopale a Olinda e Recife, dove ha anche attuato una riforma agraria attirandosi l'accusa di dilapidare il patrimonio dell'arcidiocesi, e l'ha attuata, e qui ci riporta subito purtroppo bruscamente alla nostra attualità, schierandosi con il popolo contro la dittatura militare di quel tempo. Ecco, io quindi la prima domanda che vorrei fare a Marcello è: cosa ne è di questa profezia di Domelder nella realtà attuale del Brasile? Come è stata raccolta questa eredità, da chi avrebbe dovuto raccoglierla? Buonasera a tutti e a tutte. Per me è una gioia immensa essere qui con voi, trovarvi, ritrovarvi, diverse persone, credo anche che la maggioranza già diverse volte che siamo trovati. Parlare della profezia, sia di Helder Câmara, sia di qualcuno, è sempre una cosa importante e difficile. Importante perché è la comunicazione, e la comunicazione più profonda della verità, che non sempre è chiara. Quer dizer, penso che la profezia esiste quando stiamo un poco in un momento di buio, vogliamo una luce, non sappiamo dove cercare, e qualcuno viene e accende la luce e dice lì. E dunque, in questo aspetto, oggi più che mai, più che in altri momenti, questa profezia è attuale, è opportuna, è urgente. E la profezia di Helder Câmara, non so se tutti qui sanno chi è stato Helder Câmara, no? Helder Câmara è stato un vescovo brasiliano, diciamo, è stato vescovo ancora em 1952, em uma época de uma igreja católica muito que usa, muito centrata sul de sé, muito clerical, em um mundo muito eclesiástico, de cristianità, não? A igreja dominava com este mundo, e lui ha voluto que quello fosse cambiato. E era chamado de vescovo delle favele, dei poveri. Qualquer volta, qui in Roma, se lhe chamava de vescovo rosso. Não? E lui, por quê? Porque lui não falava per la chiesa e neanche sulla chiesa. Tutta la sua preoccupazione era la società, il mondo novo, la realtà sociale, principalmente em um mundo, em uma situação dove, por exemplo, se divideva o mundo tra leste comunista e ocidente democrático, não se diceva capitalista, lui diceva não, com essa diferença, com esta divisão não c'è. E mostrava com dati que um não se dava muito bem com o outro, quando lhe interesse era no estesse. A diferença entre o mundo opressor, o mundo colonialista, o mundo imperialista e o mundo dei poveri. Quello in quella época. E é incrível como hoje nós somos em América Latina, em uma situação de revoluzione de destra, ou de contro-revoluzione armata, em toda a América Latina, ogni volta più forte, ogni volta più feroce, com a stessa lógica. della dominazione dell'impero sui paesi poveri, impoveriti, sfruttati, dominati da cinque secoli, però oggi con nuove armi, non più le armi dei cannoni, però con quello che chiamano guerra di bassa intensità, no? Guerra della comunicazione. Dunque, se usciamo qui nella strada e domandiamo a qualsiasi persona che si trovi, che pensate su Venezuela attuale? Tutte le persone dicono una dittatura, un paese con la fame, tutta la gente correndo, nessuno può vivere lì, eccetera. Tu vai lì e non è vero questo. Che sono molti problemi, non sto dicendo che non c'è, però è una guerra, è una, no? E dunque la profezia di Helder Câmara, la profezia del Papa Francesco, la profezia di tutti voi, perché siamo qui per quello, mi pare urgente, fondamentale. Tutti conosciamo più o meno a grandi linee almeno gli ultimi eventi che si sono succeduti in Brasile, a cominciare dall'impeachment contro la presidente Dilma Rousseff. Proprio per sintetizzare al massimo, diciamo, si è arrivati all'impeachment dopo un... Dopo i due mandati di Lula e il primo mandato di Dilma Rousseff, a metà del mandato di Dilma Rousseff c'è stato l'impeachment, un impeachment che si è configurato subito come un colpo di Stato istituzionale o golpe bianco, golpe soave, come è stato chiamato in molti modi, in realtà un colpo di Stato parlamentare giudiziario mediatico che appunto ha posto fine in maniera traumatica all'esperienza dei governi del PT, perché dopo un lungo periodo, diciamo, di politica basata sulla conciliazione di classe, in cui approfittando del panorama economico di positivo a livello internazionale, c'era la possibilità di fare politiche che accontentassero un po' tutte le fasce sociali del Brasile, quando è cominciata la crisi economica scatenata poi dalla crisi finanziaria del 2008, questi margini si sono chiusi, era necessario fare una precisa scelta di campo o con le classi povere o con le classi ricche, malgrado diverse concessioni della presidente Dilma per far sopravvivere il governo, e l'elite ha pensato che doveva riprendere proprio l'offensiva in grande stile, e approfittando di un Parlamento a maggioranza conservatrice, è stato detto che è stato il Parlamento più reazionario della storia repubblicana del Brasile, si è proceduto a questo colpo di Stato, ma da subito è stato chiaro che il vero obiettivo non era tanto eliminare Dilma quanto eliminare Lula, perché eliminare Dilma con la prospettiva di nuove elezioni presidenziali che Lula avrebbe vinto sicuramente non risolveva il problema. Da qui appunto, per questo poi parlamentare, mediatico, giudiziario, c'è stato un processo contro Lula, un processo che è stato definito da una quantità enorme di giuristi, non solo brasiliani ma in tutto il mondo, come un processo farsa, che ha portato la condanna di Lula e poi l'aumento della condanna a 12 anni e un mese in seconda istanza, e grazie a una interpretazione della Corte Suprema che dal 2016 ha permesso di arrestare i condannati in secondo grado, modo, quindi prima che si esauriscano tutti, prima che la sentenza passi in giudicato, cioè prima che si esauriscano tutte le risorse processuali, Lula è stato arrestato e nonostante i legali abbiano cercato in tutti i modi un'uscita da questa situazione, Lula è da 2 mesi ancora agli arresti, con la possibilità comunque di registrare la sua candidatura ad agosto, ma che probabilmente sarà invalidata in base alla legge Fischia-Limpa che è varata proprio dal governo Lula, che proibisce ai condannati in secondo grado di presentarsi alle elezioni. Però lascia dei margini nel caso di ricorsi ancora da esaurire che abbiano un carattere di plausibilità, lascia ancora dei margini perché Lula possa presentarsi alle elezioni. Ecco, questa è la situazione come si presenta attualmente. E, tra l'altro, la situazione carceraria di Lula è particolarmente punitiva perché è stato un po' messo in una cella, isolandolo anche da tutti gli altri detenuti, permettendogli e a fatica, non so, oltre alla visita degli avvocati e della famiglia, anche quella degli amici, e a fatica perché all'inizio non gli si faceva vedere nessuno. E Marcello dei teologi, è stato uno dei primi Marcello a parlare con Lula, e il secondo dei teologi è andato Leonardo Boff, poi c'è stato Marcello, ieri mi sembra c'è stato Frebetto. E ecco, la prima domanda, poi magari scenderemo più nelle diverse questioni, è come è andato questo colloquio di Lula, come l'ha trovato, che cosa Lula intende fare, quali sono le sue aspettative e cosa tu pensi di queste aspettative? Io ho conosciuto Lula quando era presidente del sindicato dei metalurgici in San Bernardo do Campo, nella década di 80. Aveva con lui un contatto che non può dirsi di amicizia, come per esempio Beto, che lo ha accompagnato nella pastoral popolare, era l'accompagnatore del suo gruppo, dunque era con lui lì, no? O anche Leonardo Boff, che viveva più vicino, io viveva in Goiás ou in Recife, dunque ho trovato qualche volta. Se conoscevamo, però non di una prossimità, di una vicinità, di amicizia. Quando lui è stato presidente per la prima volta, 2002, io sono stato sorpreso di ricevere un invito ufficiale della Presidenza della Repubblica per stare nell'insediamento e fu la quarta persona che lo ha salutato con la fascia presidenziale. Io non sapevo perché, lì era in quella sala tutti autorità, meno io. E dunque, a un determinato momento, ho domandato, ma perché sono qui? No, no. Perché era un presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana, della Federazione Espírita, e io non sono presidente di nulla. E dunque, Luri non mi ha risposto, perché era proprio... Però quando sono stato con lui, ho chiesto. E lui mi ha detto, io volevo una persona di base della teologia della liberazione. Mi ha detto soltanto quello. E bene, siamo stati così. Nella seconda volta che lui mi ha invitato, il secondo governo di lui, io non sono andato. Già aveva molte differenze di concezioni, io non ero felice con qualche cosa... Non ha fatto reforma agrária, não ha fatto la, ecologicamente la política não era, ao meu parer, correta. Eu digo, não fato. E, dunque, dico quello per dire que não sono entusiasta così, Lula, Lula, Lula. Mas é claro que, em questo momento, la prigione é injusta, ilegale, e lui ha tutto il diritto di essere candidato, não? E se il popolo vuole essere presidente. Dunque, quello lì deve essere lasciato chiaro. E quando lui è stato imprigionato, io mi ho offerto alla gente del PT, primo per andare con lui fino alla prigione, e secondo, contem comigo come può. E qualquer persona detto Lula vuole lui e quelli che lo accompagnano fare un sciopero di fame. E io ho detto, il medico mi proibisce, io sono stato operato, ho 73 anni, insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, non può fare sciopero di fame. Capisci? Non posso. No? E dunque, io non sono andato lì in quel momento della prigione, ma sono restato un po' di... io ho mancato. Capisci? E dunque, immediatamente dopo, ho detto, voglio visitarlo e voglio... Eu explico quello perché io non ho detto questo nella lettera. E dunque è proibito, non può. Io sono andato lì primo di maggio e ho chiesto con un documento firmato da avvocati il diritto che lui ha alla visita religiosa, assistenza religiosa. E ho domandato. E la giudice ha risposto... non obbediamo a questo tipo di legislazione. E dunque, nulla. Ho partecipato del primo di maggio in Curitiba, che è stata nazionale, e la prima volta dopo 85 che sei centrali sindacali si sono riunite per celebrare il giorno del lavoro. No? E è stato una grande... E dopo sono andato all'accampamento Lula Livre, ho parlato, però non ho potuto visitarlo. Ho mantenuto la domanda e 15 giorni dopo, lunedì 14 di maggio, io avevo già qualche giorno prima, ricevuto un avviso, è permesso, e ti hanno permesso di visitare. In quel momento era ancora un permesso individuale. Dopo è stato chiaro che ogni lunedì lui riceve la visita di un rappresentante religioso. E lui vuole che sia di religioni diverse. Non lui mi ha detto questo. Lui mi ha fatto, attraverso di me, l'invito al monge Sato, que é um monaco budista de Brasília, e uma outra pessoa que era um pastor evangélico. E, dunque, eu sono stato lì, não racconto detalhe, però l'ho trovato bene, sereno, firme, nulla depresso, assolutamente, com molto livre, per leggere, io ho portato più due, e... emagrito, a prima coisa è la prima volta che ero con lui, una ora e 15 minuti, solo io e lui, in una sala, seduto in una sedia, assim, in una tavola, no? E dunque abbiamo parlato un po' di tutto, lui mi ha parlato della famiglia, ricordo della mamma, la storia di quando è venuto a São Paulo, venuto del Nord-Est, musica popolare brasiliana, ha parlato di tutto, era un incontro così amico, senza nulla di... Io ho lasciato che lui conduca il dialogo. A un momento lui mi ha detto, quello che è più pesante per me è non avere una persona come te per parlare sempre. No? Sono isolato. Nessuno, e mai mi era caduto questo nella vita. E dunque è il più pesante, è la solitudine, no? L'isolamento. Io ho detto a un momento, io non voglio nulla religioso, perché non, sono come Helder Câmara, non penso nella chiesa, nel clero, nelle cose religiose. Ma sì nella spiritualità e voglio darti un appoggio spirituale. E lui mi ha risposto, l'appoggio spirituale che ho bisogno è che tu mi aiuti a distinguere la indignazione immensa che io sento e l'odio. que eu não voglio avere, não voglio mantenere, não voglio nutrire, não? E eu lhe risposto, eu não sou, diciamo, qual é a receita per questo, però so que em tutte le tradizioni religiose, sia nel budismo, sia nel cristianesimo, per esempio, i profeti sono stati sempre moti dalla indignazione, che anche si chiama indignazione profetica. Però la indignazione è la non sottomissione, la non accettazione della ingiustizia. La ingiustizia non deve essere accettata, non può essere consentita, non può. Noi non possiamo. Bonhoeffer, che è un teologo tedesco luterano, nell'epoca di Hitler, nella Germania, diceva: del male non si deve fuggire, si deve combattere. Capisce? E dunque l'indignazione è questo, l'odio è altra cosa. L'odio è un veleno che io tomo pensando in farti male a te. In fare male a te. No? Ma che sto pensando io? Dunque, prima di tutto, mi fa male a me. E dunque, l'odio non è il contrario dell'amore. Il contrario dell'amore è il disamore. Non so se esiste questo in italiano, no? Però il male è un'energia negativa, cattiva, che non c'è nulla a vedere direttamente con la indignazione. No? E lì abbiamo parlato così, no? E lui mi diceva, ma va bene, tu mi spiega queste cose, io accetto, ma i miei figli, i miei nipoti piccoli, bambini, come posso spiegare a una bambina di questa età, perché lui ha un nipote così, ha una di 2 anni, e dunque come posso spiegare che sono qui e loro vedono televisione, loro ascoltano le notizie, estão em colégio, em escola, vão na escola e colegas, le persone della classe, dicono quello che ascoltano su di me. E eu não voglio anistia, eu não voglio um governo ou qualquer pessoa que me diga é anistiato, é perdonato, não, nulla que me perdona, não. Eu voglio que comprovam a minha culpa, o que dichiaram na minha inocência. Capisce? E, dunque, questa è stata la. Qualquer momento aveva un alívio, diciamo, non, ma è stata così. Ma lui è così, voglio dire. Nell'ultimo momento gli ho dato la comunione eucaristica che ho levato e lui ha ricevuto con molta pregato, preghiamo insieme il Padre Nostro e io gli ho domandato di dare a me anche e per quello ho portato 2 e ho detto ci sono molte altre persone che vogliono visitarti e è buonissimo questo e io non voglio prendere il posto di nessuno, ma se per caso tu senti che io possa essere utile a qualsiasi momento, mi chiami, e chissà, finale di giugno, perché adesso vado all'Italia, giugno, luglio, io torno qui. No, giugno, non sono più qui. Tu puoi mi visitare nella mia casa. Capisci? E è stato così. Quella era la energia. Sì, dal punto di vista proprio della carcerazione di Lula non è che ci siano molte prospettive, secondo tutti, prima delle prossime elezioni presidenziali che ci saranno a ottobre, sempre che ci siano, poi ne parliamo, Lula resterà sicuramente in carcere. Non è che la destra golpista ha fatto tutto questo per poi farlo uscire proprio al momento delle elezioni, è molto improbabile. Però anche la destra golpista populista, anche se sembra che abbia chiuso tutti gli spazi democratici, in realtà ha un enorme problema. E questo enorme problema è che comunque a ottobre, a meno, ripeto, che non ci sia un altro golpe nel golpe per evitare le elezioni, deve presentare qualcuno e non ha nessun candidato. E in tutti i sondaggi Lula è primo, malgrado due mesi fuori, diciamo, dalla scena politica. In realtà è presentissimo ancora, però sicuramente non sta in piazza, non sta in mezzo al popolo, che è proprio quello che tra l'altro gli riesce meglio. Nonostante questo continua a crescere nei sondaggi. In base all'ultimo, sondaggio, Lula vincerebbe col 39% dei voti addirittura al primo turno, perché il 39% sarebbe superiore alla somma di tutti gli altri candidati messi insieme, quindi vincerebbe al primo turno. È ovvio che in questo senso la disperazione della destra è massima. Al secondo posto ci sarebbe un filo fascista che risponde al nome di Jair Bolsonaro, che sì, è uno che all'epoca dell'impeachment contro Dilma Rousseff fece tutta un'invocazione a un torturatore, a un colonnello torturatore durante la dittatura militare, un omofobo, uno che difende il diritto dei proprietari di andare a sparare senza terra, così, insomma è una persona francamente impresentabile. È anche uno che non è in grado di stabilire alleanze, non è un candidato della destra golpista che, diciamo, che ha qualche pretesa di presentare abilità perlomeno internazionale e qualche rimasuglio, molto rimasuglio di apparenze democratiche, per cui anche il secondo non è un candidato fattibile. Dopodiché ci sono una serie di candidati che hanno una posizione molto ambigua, oscillante, come Marina Silva, che è stata ministra dell'ambiente di Lula, uscendone poi in polemica con la politica ambientale del governo, e diciamo che all'epoca c'era da darle comunque ragione. Però è una persona molto, molto oscillante, a posizioni anche molto reazionarie, non è un candidato gestibile né dalla destra né dalla sinistra. Poi c'è Ciro Gomes, che è un candidato di centrosinistra del partito di centro. Allora, Ciro Gomes, poi correggerai bene, diciamo che è paradossalmente considerato un piano B tanto da settori del PT quanto da settori di destra, cioè proprio alla disperazione c'è Ciro Gomes. In realtà poi la maggioranza del PT non lo vuole, perché poi è uno che ha anche simpatie per il Partito Socialdemocratico, quindi è a posizioni molto ambigue, è uno diciamo che strizza l'occhio da una parte a una politica neodesenvolvimentista, che è quella in grosso modo che ha portato avanti Lula, però poi con simpatie di destra, per cui insomma sarebbe proprio l'ultima spiaggia per tutti gli schieramenti, però comunque ha consensi anche lui bassi. E poi in fondo ci sono i candidati dei golpisti, a cominciare da Alckmin, il socialdemocratico, che sarebbe il vero candidato della destra golpista, ma che sta proprio a 2-3%, così. E naturalmente è tagliato completamente fuori il presidente Temer, che ha un livello di record di impopolarità, proprio per cui anzi tutti i candidati cercano di tenersi ben lontano da Temer per non venire associati alla sua politica, e quindi questa è la situazione. Quindi io volevo chiedere a Marcello come vede lui questo discorso delle prossime elezioni, come secondo lui se ne può uscire, e anche se si terranno le elezioni, perché di fronte a questo quadro voi capite bene che non è interesse della destra affrontarle in queste condizioni, per cui ci sono in maniera ricorrente delle voci che fanno pensare che magari possa essere inviato, possa essere sfruttata una situazione di instabilità, eccetera. Dunque, noi viviamo in Brasile, come io dicevo prima, una specie di guerra contro o insurgente, econômica, política, diplomática, psicológica, tutto, não? É diretamente dal governo norte-americano. Il giudice Sergio Moro lavora per la CIA. Qui. Le monde diplomatique. Non sono io che sto dicendo, no? Professore di un'università di Parigi. Lui lavora per il Departamento di Stato e la CIA. Dunque, tutti sono le elite che sono riunite. Io ricorderò a voi che nelle elezioni passate di 2014, tutte le inchieste, come si dice, ricerche, as pesquisas di sondaggi elettorali dicevano per il secondo turno Dilma e Marina. E dunque tutti bu, perché uno altra, gli altri non importavano molto, la ricerca diceva pochissimi, è Dilma e Marina. Quando nel giorno delle elezioni, mentre che già le urne si chiudevano, è uscita la notizia, assolutamente, Marina non è stata considerata per nulla dopo l'inizio. Era una strategia, era una guerra. È stato dopo l'inizio Aécio, che era il candidato della destra. E il secondo turno è stato Dilma e Aécio. E Dilma ha guadagnato per molto poco. Io ricordo quello per domandarsi, per chiedere, sarà che adesso questo non si ripete? Vuole dire, non hanno un candidato qui occulto nella tasca e mettono un altro per essere bruciato? Perché, per esempio, mettere pietra in Bolsonaro è molto facile. Un uomo che dice a una deputata eleita nella Camera federale, io non ti stupro perché tu non merita. No? Un uomo che dice militare è per uccidere, un militare che non uccide non è militare. La soluzione per la milizia e la droga nelle favele di Rio de Janeiro, passiamo di elicottero e diciamo con microfono, mettete le armi qui, le droghe lì, 15 minuti, se non fanno quello, bomba. Blu, blu. Un uomo così, capisci? Sarà che è veramente il candidato? È vero questo che lui è diciamo, il candidato più votato della tutti gli istituti di sondaggio in Brasile appartengono alla Globo, e dunque non so se possiamo credere esattamente. Io penso che ci sono certi segreti che non si deve mantenere. Capisco quello che dico? Dunque, vi racconto uno. Il cardinal de Rio de Janeiro, Orani Tempesta, 15 giorni fa, credo, un po' più, perché io sono uscito di Brasile 15 giorni, è stato nella settimana anteriore, ha chiamato nel palazzo dell'Arcepiscovile Fernando Henrique Cardoso. E mentre che prendevano un buon whisky, gli ha domandato qual sarà il candidato per poter vincere Lula, che noi possiamo garantire che Lula non vinca. E Fernando Henrique Cardoso ha risposto Geraldo Alckmin. E lui ha detto, io preferirei Dória. E Cardoso ha risposto, Dória, lanciamo nella prossima. Per il momento lui è molto... non va. No? Nella prossima potrà essere. Per il momento è Alckmin. Questo cardinale aveva per nella elezione di sindaco di Rio de Janeiro Marcelo Crivella, Marcelo Freixo. E Marcelo Crivella, vescovo della Chiesa Universal del Reino di Dio, lui come cardinale pochissimo ecumenico, nulo ecumenico, ha votato in lui. Perché? Perché Marcelo Freixo è favorevole all'aborto e alla unione gay. Questo è il motivo. Della stessa forma che i vescovi nordamericani hanno proposto ai cattolici di votare in Trump, perché lì non c'era problema con questo problema morale. Se fa guerra è altra cosa, non è tanto problema. In Recife, dove io abito, l'archivescovo anteriore, non questo adesso, ha condenato, ha escomungato, fatto un decreto di escomunione, a una signora che la figlia di 9 anni è stata estuprata dal padrasto, come si dice padrasto? E il vescovo ha escomungato la mamma, il medico e l'infermiera. E i giornalisti sono stati a lui e ha detto, ma monsignore, mamma, infermiera, medico, ma l'uomo che è stuprato? E lui ha risposto, bene, l'aborto è un peccato peggio che l'estupro. Capisce? Ho detto tutto? E dunque, che potrà essere di queste lezioni, con questo quadro che sto dicendo qui adesso? Non posso garantire. Penso io che nella ora in che comincia la campagna elettorale, si comincia, perché Claudia domanda, sarà che c'è elezioni? È molto difficile non avere, perché la forma oggi di questa guerra di bassa intensità è mantenere la, diciamo, l'apparenza di legalità formale. E se non c'è elezione, non hanno come mantenere. E dunque, di una certa forma, il governo teme ogni volta di più a meno accettazione popolare. Penso che nem per loro è possibile mantenere questo governo. E come vanno a cambiare? Un golpe militare? Si parla di quello in Brasile ogni giorno. Non c'è un giorno in cui un coronele, non si dica i militari vengono a intervenire. Ma non credo che sia possibile. Non stiamo nella decada di 60. E Brasile non è Honduras in termini di dimensione, di condizioni di vita. È diverso. Quello che hanno fatto con Manuel Zelaya non vanno poter fare il presidente dell'Honduras. Il presidente dell'Honduras. Non potranno fare. E dunque io credo che avverrà sì elezioni. Però mia opinione è che nell'ora che comincia, per la prima volta, i candidati di sinistra avranno ogni giorno un tempo, depende della dimensione del partito, di comunicazione nella televisione. E lì Lula vai essere liberato, perché le prove reali, per esempio, basta mostrare il documento della vendita del triplex per il quale lui è condenato, che adesso appartiene a Moro, a Doria, a comprato, não? A comprato. E dunque, capisce? Não é possível manter ele, Lula, liberato. Diciamo que não possa ser candidato. Mas lui é um eleitor fundamental. Se lui disse é Fernando Haddad ou é Jacques Wagner, que são os dois do PT que se apresentam, não te chamo, não. Penso que, pelo fato que lá destra si riunirà all'intorno di Geraldo Alckmin, per quello che ho detto la storia del cardinale. Non Bolsonaro è cattivo per tutti. Nessuno va a assumere Bolsonaro. È pericoloso, è rischioso per tutti. La persona adeguata a loro è Alckmin. E dunque la cosa vai essere Alckmin e qualcuno di noi. Diciamo, noi, se Lula não vá, cerchiamo de volere Boulos. Però, per il momento, povero, sconosciuto ancora, giovane, dunque, come in politica tutto è possibile. Ma tu pensi che ci sono veramente possibilità che Lula possa essere liberato? Liberato sì. Candidato, non penso. Ah, ecco. E tu pensi che nel momento in cui la candidatura di Lula verrà invalidata... Lula per loro oggi è molto peggio per loro, Lula imprigionato, sì, che Lula liberato. Ho capito. Loro mantengono Lula. Io credo che è stato un errore. Come tutti sono aliati e nessuno... anche quelli che sono più intelligenti, che hanno percepito che non era buono imprigionare, non sono riusciti a evitare. Attualmente chi manda in Brasile è Moro, un giudice di prima istanza, lui è l'autorità suprema. Lui fa quello che è legale, quello che non è legale, e nessuno dice nulla. Per la legge è assolutamente proibito, è un scandalo, un giudice che registra illegalmente, clandestinamente, un dialogo tra il Presidente della Repubblica nel Palazzo. E lui ha fatto quello, ha domandato scusa, così però tutto è mantenuto uguale. In qualsiasi paese normale lui era caduto. E dunque, in questo aspetto, io penso che Lula esce dalla prigione, perché tutti, destra, sinistra, tutti vogliono che lui esca dalla prigione. Lui non penso, no? Tutto è... Sì, certo. Ma la mia impressione è che non lasceranno, mostreranno per la legge che loro controllano, che lui non potrà essere candidato, ma... Lì lui potrà influire molto nelle elezioni. Nella mia opinione, se voi mi domandate che tu vuoi per questa elezione, quello che vorrei sarebbe garantire il legislativo, avere un congresso meno venduto, meno... No? Meno comerciale, com a legge atual que le corporazioni não possono financiar la campanha, riuscire um congresso più autêntico, più representativo, e lì fare la reforma política. Capisce? Quello sarebbe la mia. É a prima coisa. Eliminare queste norme, questi decreti di Temer. Tutti. Tutto illegale, tutto... Lui non ha diritto di fare una legge congelando per 20 anni tutte le spese sociali. Non esiste questo. Questo è anticostituzionale. Non può fare questo. E dunque c'è bisogno di cancellare. Non so se si riesce... Cancelar la vendita, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo venduto, não? Não sou se riescono. Se é possível, facciamo. E, dunque, é molto lavoro a fare. E não credo que eu chamo o presidente da República, mas, no momento atual, o Congresso é fundamental. O problema atual de Brasília é que tutti i poteri sono dell'altro lato. Capisce? Se io chiamo almeno avere un qualcosa di nostro lato già migliora il gioco. È possibile giocare. Posso fare io una domanda? Sì. Certo. Finora abbiamo parlato del sistema di potere politico. Siamo arrivati alla possibilità, anzi all'auspicio, che Marcello fa di un legislativo meno compromesso, più libero, espressione della società. Allora, a me interesserebbe conoscere la sua innanzitutto descrizione e poi la sua opinione sulla composizione culturale e sociale della società brasiliana oggi, anche indipendentemente dalle rappresentanze politiche. Noi siamo qui in Italia, abbiamo alle spalle un'elezione di 2 mesi fa. La società italiana ha espresso democraticamente, anche se a taluni, per esempio a me, non piace questo risultato elettorale, ma ha espresso democraticamente una certa maggioranza. Una maggioranza che francamente un po' mi fa paura. E allora il problema non è solo il sistema politico, il problema è le culture, le opinioni, i sentimenti di solidarietà o di ritorsione, di xenofobia, a volte di razzismo, che percorrono la società. Qual è la situazione brasiliana in questo momento? Io credo che non è buona. La società brasiliana, la massa, no? Come si dice in Brasile, la... è proprio governata dai mezzi di comunicazione come Rede Globo e le ricerche che hanno fatto nelle città dicono, per esempio, 65% dei brasiliani favorevoli a pena di morte. Una settimana prima di che eu venisse qui, un giornalista ha preso una... e ha uscito nel centro di São Paulo domandando alle persone nella strada: tu sei favorevole all'unione gay? No, assolutamente. No. Dunque, tu sei favorevole a... tu sei... domandava, tu sei era di... non so di che. Ele, no, no. Tu sei era di dell'Homo sapiens? Assolutamente. Quer dizer, eu reconto com esta pare uma bugia, pare uma, però per dire la gente cozida na estrada, o popolo vá, não? E por troppo il governo Lula e Dilma no ano favorito per nulla um aprofundamento dele educazione, delle base, delle dei movimenti sociali. Não possiamo, diciamo, culpare, não é uma questão de responsabilizar um no outro, mas quando Lula é stato eleito, per adempire, per riempire tutte le vaghe, não? Ha preso molte persone di movimenti sociali, e dunque é um po' svuotato le lideranze sociali che fanno l'educazione. E lì, dopo lì, adesso ricomincia, ripartiamo di basso. La parte di chiesa uguale, che secondo Giovanni Paolo II è stata una repressione molto forte alle comunità ecclesiali di base, alla teologia della liberazione, ai movimenti più di un cristianesimo liberatore, e oggi ancora, la rivista Carta Capital ha fatto una ricerca in tutte le regioni di Brasile qual è la influenza della proposta del Papa Francesco nella Chiesa che infatti ha cambiato nelle diocesi. E il giornalista Marcelo Auler, che è un amico, ha preso questo materiale e la domanda era pubblico o non pubblico, perché pensava in pubblicare un numero speciale. Ma la risposta era così negativa, era così per dire, non c'è nulla, la influenza del Papa Francesco è nulla, che lui non sapeva se era meglio pubblicare o non pubblicare. E i consiglieri della rivista hanno pensato che nel momento attuale politico brasiliano è meglio non pubblicare. E non hanno pubblicato. Dunque, la situazione brasiliana è difficile in questo punto. La gente, andiamo ai quartieri, etc., nella città brasiliana, la gente non si rende conto. Adesso ha avuto un sciopero dei camionisti. Qual era la questione? La questione era il prezzo della benzina e del diesel. Come? Diesel. Del carburante, no? Però dietro venivano delle cose molto più profonde, la privatizzazione della Petrobras, la politica di ogni giorno cambiamento di aumento di tutto questo, no? Ma la gente non si rende conto, dunque c'è bisogno di un lavoro di educazione popolare. Nella città dove io abito, nel quartiere dove io abitavo nell'ultima elezione, ha avuto un attuale ministro dell'Stato, ministro dell'Educazione, Mendonça Filho, che ha comprato voto per R$100 nella strada, così. No? R$100, tu voti in me. E la gente vota. E dunque, non voglio essere pessimista, não é quello, ma per dire, e partiamo facendo un lavoro un poco da capo. In questo aspetto, questa realtà attuale comincia a cambiare. Perché la realtà è così complicata. Io scrivo un libro per lei, no? Per lei, la mia capa, su liberazione. E io dico, la liberazione è una esigenza antropologica dell'essere, no? Ma quando viviamo una situazione di molta oppressione, la stessa oppressione mi porta a una situazione critica, che può portare alla liberazione o no, ma dunque quello è la situazione attuale brasiliana. Aggiungo una osservazione che forse potrà consentirci di allargare il problema al di là del Brasile, perché la mia sensazione è che i processi in atto sono processi di carattere generale. Il Papa Francesco ha utilizzato tutto il suo peso per intervenire nel processo di pace in Colombia, è andato in Colombia, ha dato tutto il suo appoggio, entrando anche in polemica con parte della Chiesa colombiana. L'altro giorno i risultati elettorali hanno dato ragione alla destra, cioè a chi era stato, insieme a Uribe, il leader contrario al negoziato di pace. Certo. Allora, qui il problema diventa davvero complicato. Noi ci eravamo illusi, in molti, anche in Europa, che il papato di Francesco potesse, così come era successo con Giovanni Paolo per quanto riguarda l'est europeo, ci eravamo illusi che il papato di Francesco potesse determinare una tendenza progressista in America Latina. L'effetto, guardando e ascoltando Marcello sul Brasile e guardando i risultati colombiani, sono esattamente contrari. È il problema. Eu sono stato, sempre racconto quello perché mi ha toccato molto, mi ha colpito molto. Sono stato in São Félix do Araguaia, che è una diocesi, una prelatura di Pedro Casaldáliga. Adesso lui è malato, è un poverello. E gli agenti pastorali hanno fatto lì un teatro, una pezza teatrale. Sapete qual è il nome della pezza? Dirò in brasiliano, dopo dirò, cercherò di tradurre in italiano, o lei mi aiuta a tradurre. Segura o tacho, porque o fogo vem de baixo. Como se diz em italiano? Prenda na padella que o fogo arriva de sotto, não? O fogo vem de sotto. Mantenha la pentola, não? Que vuole dire quello? Que é ótimo, é maravilhoso ver um papa que mantenga la pentola, mas o fogo vem de baixo. Fogo não vem do Papa. O Papa não pode ser de profeta que cambia a chiesa. Não cambia. Não cambia. Na minha maneira de capire a situação, a responsabilidade de questo risultado da intervenção do Papa Francesco, de questa situação de apatia do povo brasileiro, la responsabilità non è della media, non è del neopopulismo mediatico oggi. Sì, in parte. Perché è questo che, diciamo, fa il legame. La media è nordamericana. L'associazione si chiama, io penso che AIP, Agenzia Interamericana di Stampa, non di Prensa. Ha ricevuto nell'anno scorso, saputo di quello per qualcuno che ha contatti, 6 milioni di dollari per ogni giorno mantenere delle informazioni negative su Venezuela, soltanto su Venezuela, 6 milioni di dollari, e queste informazioni vengono a tutto il mondo. Io penso che há uma força muito grande. Mas penso que no nosso país de América Latina, per favore, me perdonatemi de dire uma coisa, não vou o que fare, però acontecerá questo. Nós avevamos como grande amigo Arturo Pauli. Arturo Pauli é stato um grande espirituale italiano, e italiano lo conosco no molto, e brasiliano anche, perché ha vissuto em Brasília, penso que 30 anni. Arturo Paulo é morto com 104. Nell'anno 2000, lui aveva já 83, 84. E il Vaticano lhe ha invitato per stare e parlare nel giorno del giubileo degli anziani, perché era il giubileo dell'anno 2000 e aveva diversi eventi e aveva uno degli anziani. E lui ha scritto una lettera aperta, per quello abbiamo letto, al Papa Giovanni Paolo II, dicendo grazie tante dell'onore, dell'invitazione, ma non può accettare. Perché non può stare come referendando e legittimando un Papa che ha distrutto la Chiesa brasiliana. Ha detto così di queste parole. E può essere un'esagerazione dire così, senza tutte le nuance, no? Però, perché sto raccontando quello qui adesso? Per dire che noi avremo bisogno di 30 anni o più per poter rifare una situazione più normale. La Globo ha la sua colpa, ma la Globo non è colpevole del fatto che nella domenica anteriore alle elezioni di governatore, no? di sindaco, che ha avuto 2 anni fa in Brasile, nella parrocchia vicino a quale io abito, il parroco della parrocchia, nella omelia, ha detto votare nel PT è peccato. Capisce? Quello lì è più che da questione della Globo, no? Non è soltanto la Globo. La Chiesa colombiana, perché sono contrari alla pace? Perché la Chiesa vuole mantenere il potere. vuole dire, cioè, il Papa Francesco ripete tutta la vita, il clericalismo è una malattia, il clericalismo è un male, il clericalismo è un... Ma che cambia questo? Perché il clericalismo, io se potessi dire a lui, guarda, il clericalismo non è un abuso della Chiesa, è la stessa Chiesa, è il sistema attuale. O cambia o non funziona. E dunque, i nostri paesi che sono ancora dentro di questa cultura, perché sono, e lì non si parla soltanto dei cattolici, parla del paese, no? Se la Chiesa cattolica in Brasília avesse un atteggiamento chiaro e i vescovi non fossero più diplomatici che profeti, io penso che sarebbe diverso. La consciência popolare, non soltanto dei cattolici, è quello che sto dicendo. Sto parlando della società. Quando io leggo che nella storia dell'America Latina la Chiesa Cattolica è stata contraria all'indipendenza dei paesi per 20 anni, non per uno, per due, per tre, per 20 anni, non ha parlato nulla contro la schiavitù dei neri, uno preto, altro, però io parlo la Chiesa. I gesuiti hanno difeso gli indios, sono stati espulsati e sono stati distrutto la sua congregazione, la sua ordine religiosa. È stata l'unica ordine della Chiesa che il Papa chiuso. In quel momento lì in cui loro difendevano la Repubblica degli Indios, 1780. Quello è stato un abuso della dottrina della, o è stata la stessa, lo stesso sistema? Nella mia opinione, purtroppo, è lo stesso sistema. Capisce? Che deve cambiare. Non sto dicendo che il per distruggere la Chiesa, ma per convertire. Convertire si dice, sì, no? Sì. Io ho un'immagine un po' diversa sulla situazione in Colombia, perché secondo me non è stato così negativo il risultato, nel senso che ancora il discorso è aperto per il secondo turno ed è la prima volta che un candidato progressista giunge a contendere realmente la possibilità di arrivare alla presidenza. Comunque, questa chiusa parentesi, volevo un attimo tornare al discorso dell'apatia del popolo brasiliano e allo sciopero dei camionisti, che questo sciopero dei camionisti nei giorni passati ha proprio paralizzato il paese per 11 giorni contro appunto questa politica della liberalizzazione dei prezzi dei carburanti, che a sua volta era una conseguenza di uno degli elementi di base di quello che è stato il golpe, cioè lo smantellamento della compagnia petrolifera statale, della Petrobras, perché praticamente, per quanto possa sembrare veramente un suicidio nazionale, la politica del presidente della Petrobras, che ora ha dato le dimissioni, Pedro Parente, è stato quello di puntare soltanto sull'esportazione del petrolio greggio e di esportare questo e di importare invece il prodotto raffinato, quindi i derivati del petrolio, la benzina, il diesel. E quindi è proprio una regressione dell'industria nazionale, puntare all'esportazione della materia prima senza valore aggiunto per importare i carburanti, che sono molto più costosi che non producendoli in Brasile. Infatti, dopo lo sciopero dei camionisti c'è stato poi quello dei lavoratori del settore petrolifero. Questo mi porta a due riflessioni su cui vorrei sentire l'opinione di Marcello. Uno è che questo sciopero dei camionisti è stato avvertito come qualcosa di positivo dalla popolazione, ha avuto molto consenso da parte del popolo brasiliano, malgrado i camionisti siano tradizionalmente un settore, non totalmente, ma tradizionalmente un settore di destra, e molti di loro infatti avevano riempito i camion con gli adesivi intervento militare ora, quindi era comunque un settore che portava un messaggio comunque pericoloso, e nonostante questo, appunto, siccome era contro il governo Temer, è stato percepito positivamente, però lascia un po' di malessere il fatto che a paralizzare il paese siano stati camionisti, diciamo, di destra, quando la riforma del lavoro e tutte le altre misure terribili che ha adottato il governo Temer non hanno portato realmente una mobilitazione dei movimenti, del popolo, della sinistra, di tutte le fasce di sinistra. Quindi questo è vero che c'è una sorta di apatia che poi è legata con quello che dicevi tu della mancanza di formazione, dell'occasione che ha perso il Partito dei Lavoratori di formare veramente la popolazione brasiliana, di tenere fede a quella che era una delle bandiere del PT, quello di essere il partito non solo delle riforme strutturali, non solo il partito dell'etica, ma anche il partito dell'organizzazione della classe lavoratrice. Ecco, il PT secondo me dovrebbe fare autocritica su entrambe queste cose. La seconda riflessione la dico subito dopo per non accavallare troppo, ma secondo me è molto importante. Intanto vorrei, appunto, da te un'opinione su questo. Io penso che ogni volta che c'è un sciopero o un movimento sociale in Brasile, tanto la destra come la sinistra vogliono un poco mettersi dentro e appropriarsi di una certa forma. E como a sinistra hoje é muito mais débil que a destra, é a destra que resta. Em 2013, a estata così, 2 milhões de pessoas na estrada. Era contra a taxa de autobus. De, não? Sí, e no final não era. O preço dos bilhetes. No final de tudo, era contra o governo Dilma, era contra. Porque a destra se ha fatto. Em questa guerra dei camionisti, é um pouco così. Però c'è un altro problema dietro, è che il sciopero dei camionisti ha mostrato la fotografia di una società totalmente dipendente dei carburanti, dei trasporti, di questo sistema e di questo tipo di società. Vuole dire, le università non funzionavano, le scuole fermavam, l'ospedale não c'era nulla. Significa, ou nós cerchiamo um outro modelo, exato, de sociedade, più de sostenibilidade ecológica, humana, nella linha del bem vivir, não? Ou perdoviamo. Tutto il problema attuale della Petrobras essere venduta è stato il pre-sal. Il pre-sal è una ricchezza immensa di petrolio nel fondo del mare. Ma è etico, giusto e è intelligente sfruttare questa risorsa? Capisce? Quali prezzi umani, ecologici, geologici di questo. E lì destra e sinistra sono, esatto, uguali attualmente. Non vedo differenza. Non vedo nessuna differenza tra il PT e DEM o Bolsonaro o altro cosa in questo aspetto. Vale dire, noi non siamo riusciti ancora a dare un passo di una sensibilità che dica la madre terra, l'acqua, le risorse della natura sono prioritarie assolute su di tutto, perché è la vita, e la vita è prioritaria. in primo posto. Sì. Dovevo riconoscere, poi c'è stata anche la distruzione delle ciclovie, però lui l'ha fatto. Certo, non c'entra niente col fatto che le ferrovie non ci stanno, questa è una mancanza assurda. Sì, sì. Però il PT ha un po' la preoccupazione ecologica. Certo. Io penso, sono d'accordo con te, accetto questo, grazie della correzione, però. Io penso che è una questione, oggi chiamiamo di paradigma, sai? Non è una questione di concerto, non è. Io posso, diciamo, fare un remendo qui, un concerto lì, e quello va bene. Altra coisa è cambiare il modello. E questo aspetto è chiaro, per esempio, Fernando Haddad è stato il meglio sindaco, almeno io non sono di São Paulo, sono di Recife, ma per tutto che ho letto, tutto che ho veduto, certamente lui è stato il meglio sindaco di São Paulo negli ultimi tempi, e quello lì è stato un'iniziativa in questa direzione. Ma non sto dicendo che lui poteva fare, ma sto dicendo stiamo ancora in un paradigma di civilizzazione che non si è messo in dubbio, non si ha, per esempio, nella questione della bicicletta. Io penso che era molto di più un problema di favorire i lavoratori, di decidere il problema terribile del transito in São Paulo, che infatti volere un altro paradigma di civilizzazione. Quando io vado a Belgio, quando io vado a Bruxelles o a Amsterdã, eu resto così, sono stato lì poco, ma perché sembra una civilizzazione della bicicletta, no? I miei amici che mi invitano per fare, per esempio, 15 giorni di quaresima ecumenica in Bruxelles 2 o 3 anni fa, sono venuti a cercarmi nella stazione di treno, mi hanno portato di treno e io ho andato di treno e di bicicletta per 15 giorni. È un'altra cultura, è quello che sto dicendo. Cominciano a cercare altra forma di vita. Non hanno macchina, capisci? È diverso di una. Di dire, cerchiamo di mediare, di fare di più. Tutto bene, non stiamo criticando, condenando, stiamo dicendo è l'ora di pensare in un'altra. Un'altra civilizzazione. Ma grazie, sono d'accordo con te. Dicevi anche l'energia eolica. Energia eolica nel mio stato in tantissimi posti, ma espulsando i contadini della terra, nella mano di imprese multinazionali, capisce? E dunque, diciamo, grazie a Dio che c'è, non dico che sia, ma la forma come stanno facendo è ancora di un cammino che dobbiamo cambiare. L'energia solare in un paese come il Brasile, esatto. Di norte a sud, non c'è, c'è i più ricchi, capisci? Non, è quello che sto dicendo, è un problema culturale, un problema civilizzazionale, non è un problema soltanto di una politica congiunturale. Congiunturalmente, per esempio, il PT è andato meglio in questo aspetto che altri governi. Ma, nel punto di vista di cambiare il paradigma, mi pare che non si è fatto nulla. Infatti questa era la riflessione appunto che avevo lasciato più là, proprio il fatto che in Brasile c'è questo mito dell'impresa madre che è la Petrobras, che posso senz'altro comprendere, visto che comunque si tratta di fonte di grandissime entrate. Però quando c'è stata la scoperta di questi immensi giacimenti al largo delle coste brasiliane, il cosiddetto Presal, quello che comunque mi ha colpito è che tutta la battaglia dei movimenti popolari è stata per il Presal è nostro, quindi deve essere sfruttato solo dalla Petrobras. Poi questo governo anche lì ha ceduto lo sfruttamento alle imprese straniere, che è sicuramente un male, ma non è che le emissioni di gas a effetto serra per il fatto che vengono da un petrolio sfruttato da un'impresa statale siano meno nocive che se vengono da imprese private. Ecco, io veramente rimango colpita, poi non tanto dalla politica dei governi, di cui insomma del mondo non abbiamo grossi modelli su cui contare rispetto appunto al modello del buon vivere, purtroppo nemmeno il governo dell'indio Evo Morales in Bolivia ha dato prova di una politica di reale cambiamento su questo terreno, quindi non rimango nemmeno tanto sorpresa dalla politica del governo, anche se mi crea molto, molto malessere, quanto dalla politica dei movimenti popolari, che veramente non hanno saputo porsi allo sfruttamento di giacimenti che, da cui già proviene il 50% del petrolio brasiliano, quindi lo sfruttamento è già molto in là, ma che immetteranno nell'atmosfera una quantità di emissioni di gas a effetto serra pazzesca. È l'ultimo studio, uno degli ultimi studi, ha calcolato che di questo passo prima della fine del secolo, quindi i tempi poi si stanno diventando sempre più rapidi, intorno agli anni 80, di questo passo la temperatura rischia di aumentare di 4 gradi. 4 gradi è praticamente l'estinzione della specie umana. Forse si salverà qualcuno di super ricco che riuscirà comunque a cavarsela, perché i ricchi se la cavano sempre, però significa proprio la distruzione di praticamente tutti gli ecosistemi e della specie umana. Che i movimenti popolari non abbiano questa visione di futuro in un paese poi come Brasile, che è così ricco di appunto di sole, di acqua e di vento, ecco, mi sembra proprio preoccupante, un indice proprio del problema della formazione. Io credo risponde lui e poi, sì, poi io credo che e poi sì, io ho finito. Io credo che è buono pensare que hoje é o giorno que a ONU consagra ao meio ambiente. Sim, é o giorno da ecologia. E em Brasília se faz tantíssima iniciativa hoje, em movimento popular, em movimento social. Comincia o cambiamento. Não vorrei fare uma análise muito pessimista. Credo que devemos ser muito crítico, mas, ao mesmo tempo, rivelare, per esempio, oggi, io appartengo a un gruppo che si chiama Nuovi Paradigmi, c'è sociologi, antropologi, gente di diverse, e c'è una banca delle esperienze di nuovi paradigmi. Voi potete entrare nell'internet. E ci sono delle cose incredibili, per esempio, nel semiarido nordestino, esperienze di energia autorenovabile, di parlare di acqua, al contrario della storia di trasposizione del fiume San Francisco, che è cattiva, molte forme di trovare l'acqua e di convivere con il semiarido, no? E dunque ci sono delle cose che si fanno, che stanno cominciando in una direzione buona. È difficile, perché è come se fosse, come in una civilizzazione vecchia, cominciare a provare il nuovo. Capisci? Non è facile. Però ci sono molte esperienze interessanti. Quello che manca è divulgare questo. Non c'è divulgazione. Ho partecipato del Forum Mondiale Alternativo dell'Acqua, índios, contadini, eram 4 mil persone, 5 giorni em Brasília. Nessuna parola e nessuno mezzo de comunicação. Nulla. Capisce? E lì era proprio. Questo era il tema. Lei aveva parlato prima dell'impatto del pontificato di Papa Francesco, no, nella politica dell'America Latina. Invece all'interno della Chiesa, qual è l'impatto della Laudato Si, secondo lei? È difficile dire perché non ho una inchiesta, non posso riferirmi a una cosa obiettiva. La mia impressione è che si domandasse ai preti italiani quanti di voi hanno letto la Laudato Si? Non credo che siano molti, no? Italiani, brasiliani e tutti. Il problema è interessante perché sulla Laudato Si, specificamente sulla questione di ecologia, ma su tutto. Non è soltanto Laudato Si. Il cambiamento deve venire di sotto. Sono i laici, sono le comunità che devono fare. Quando il Papa Giovanni XXIII è entrato nella Chiesa, la Chiesa veniva di 20 anni di oppressione durissima. Un pontificato che aveva represso i teologi, aveva, no? Pio XII. In 3 mesi, lui è entrato nel giorno 28 ottobre, nel giorno 25 gennaio convocava un concilio e cambiato la Chiesa. Perché? Perché aveva, è come per esempio in Brasile, nel semiarido, che tu passi lì a Demir, conosci molto bene questo, è tutto secco, tutto sembra bruciato, senza vita, no? Piove una, due volte e verde, meraviglioso. Capisci? Il seme, la cosa era lì, dunque giù. E quando il concilio è cominciato, noi avevamo una generazione immensa di teologi meravigliosi, francesi, tedeschi, italiani, tutti, no? Latino-americani ancora no. Però oggi il Papa Francesco non conta con nessuno, praticamente. Quer dizer, i due papi anteriori a lui hanno estinto, non la teologia della liberazione, ogni teologia, qualsiasi teologia, solo poteva avere una teologia di curia, che ripeteva quello che il Papa parla. E dunque adesso è un lavoro immenso ricostruire questo, capisce? E teologi che hanno, perché non sto dicendo che oggi non ci sono buoni teologi, ci sono, ma non si hanno il diritto di pensare e parlare. Quanti teologi voi avete ascoltato dicendole coisa che ho detto qui? Alguno? È chiaro che si può pensare di una forma, di altra, concordare, discordare, quello è normale, ma avere la libertà di dire? Ho paura di che? Capisci? No, non c'è. C'è una cultura della paura, della diplomazia, e dunque non si fa nulla. Il Papa è venuto 2013, marzo, e fino a oggi lui segue parlando. E eu penso que voi avete uma funzione muito importante em questo. Não estou falando nella Chiesa, anche nella Chiesa, não? La congregazione, la comunità brasiliana delle Sore, che ho lì due profetese importanti, hanno 50 anni di luta, não? Não é vero? 50 anni di impegno, non è una cosa di un giorno. E hanno preso la loro libertà, hanno scoperto la sua forma di fare cose, non dipendono dei preti, dei vescovi, di non so che, capisce? E dunque dobbiamo noi prendere là, e nella società uguale. Se voi mi domandate che possiamo fare adesso in questa situazione di Brasile, prima di denunciare, non lasciare che la stampa ufficiale sia l'unica che abbia accesso al popolo. Secondo, trovare gli strumenti alternativi per proponere delle cose nuove e anche provare, cominciare, no? Io penso che la campagna perché Lula sia premio Nobel della pace è fondamentale divulgare, non essere in nessun posto. Divulgare. Non sappiamo se è possibile. Io penso che là, stava dicendo a lei, che la commissione che sceglie questo è molto conservatrice, però anche io parlavo che esiste il premio alternativo, il premio popolare della pace. Don Helder Câmara ricevuto in 73 e non so in che anno, 80, Leonardo Boff ha ricevuto. E dunque, perché non pensare in questa alternativa? Se perde Nobel della Pace, cercare quello. Ma quello è importante che noi cominciamo a parlare già. Non è possibile lasciare per l'ultimo momento. Capisce? E penso anche che la realtà brasiliana oggi dipende molto, molto, molto della società internazionale. Se voi fate pressione qui, io sono stato, racconto sono stato in Berna, nella Svizzera, per la questione di una riunione sull'acqua. E la Chiesa Evangelica Svizzera aveva firmato in Brasile un documento sulla acqua come diritto umano universale. E sono arrivato lì, ho pensato che la cosa più semplice era dire, anche firmate qui, non soltanto lì in Brasile, è come si dice, in Brasile siete rivoluzionari qui. Capisce? E lì ho trovato, sai, non è facile. E io non capivo perché, ma perché? Qual è il problema? Perché non firmare questo? E lì ho preso due pastori e ho detto, ditemi chiaramente, perché io non capisco. Perché non firmano? E loro hanno detto, le nostre parrocchie sono molto poveri. Tutto vecchio, invecchiati, non sono giovani. E il dízimo ha sparito. E noi siamo aiutati da Nestlé. Non ti immaginavo. Ci sono altri che vogliono chiedere qualcosa? Io vorrei chiedere, per quanto riguarda gli evangelici in Brasile, io vivo tra qui e il Brasile, quindi alcune cose purtroppo le ho vissute stando lì, come il falso impeachment della Dilma Rousseff, sì. Me lo sono visto tutto in televisione, quindi ho visto bene all'epoca tutta la classe politica e il modo in cui votava. E negli anni ho visto aumentare moltissimo sia diciamo, la Chiesa Universale, i politici che appartengono e molta gente che li segue. Volevo chiedere cortesemente... Quando parliamo di evangelici, ci sono gli evangelici, delle chiese evangeliche, luterane, anglicane, metodiste, battista, presbiteriana, eccetera, che... come tutte le chiese, anche la chiesa cattolica, sono divise, ma c'è una buona parte con noi. E il Consiglio CONIC, Consiglio Nazionale delle Chiese Cristiane, riunisce 8 chiese in Brasile, che hanno denunciato la prigione di Lula, hanno detto che lui ha diritto a essere candidato, che denunciano il golpe, eccetera, eccetera. Sono compagni. Le chiese che non sono propriamente evangeliche, perché il movimento cristiano, i cristiani sono cattolici, ortodossi, evangelici e pentecostali. E dunque queste chiese pentecostali ancora si dividono in due gruppi, pentecostali e neopentecostali. E pentecostali, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Evangelho Quadrangular, é uma coisa. Chiesa, Igreja Universal do Reino de Deus, Casa da Bênção, é outra. E questi ultimi gruppi si sono uniti alle chiese pentecostali e a uno o altro pastore, come sono dei preti cattolici, no? Per avere potere politico, a serviço della chiesa. Questo potere può venire della sinistra o della destra, poco importa. È quello che favorisce la chiesa, avere televisione, avere radio, avere denaro per costruire cose. E dunque lì è terribile, perché il popolo, poco importa, e adesso fanno una campagna per un Brasile evangelico. La maggioranza nel congresso brasiliano sono non partito, poco importa, non esistono partiti, esistono bancada, vuole dire lobby, no? E questa bancada ci sono tre B: bala, Bibbia e boi, vuole dire, capisce, no? La maggioranza delle tre bancate sono, si dicono evangelici, sono pentecostali. E dunque è duro. Eduardo Cunha, ex-presidente responsabile per l'impeachment di Dilma, è evangelico, è della Chiesa Assembleia di Deus. E aveva fondato una firma per rubare. Sappiamo che ha rubato almeno 18 milioni di reali. Quel nome, Jesus.com. Doria e Crivella anche sono pentecostali? Come? Doria e Crivella. Crivella, sì. Crivella è... É gênero, não? De Macedo. Pero Dória não sou, penso que não. Dória é um empresário. Gente, penso que se é um santo, sono visto aqui. Cari amici, noi dobbiamo davvero ringraziare Marcello Barros per... Claudia Fanti, per questo regalo che ci ha fatto, perché sentirlo parlare proprio tocchi con mano di cosa significa ciò che ci ha detto all'inizio, che cos'è la profezia. Tu vuoi questo? Lui ha qualificato profeta, non ti sa più. Chi accende una luce. Ecco, a me pare che queste ore e anche la passione insieme alla lucidità razionale che ha segnato ogni sua parola ha consentito a noi, non solo ai brasiliani lontani dal Brasile, ma anche agli italiani, di accendere una luce per vedere meglio. E io confermo ciò che lui ha detto per il Brasile, ma vale per molte parti dell'America Latina. L'attenzione internazionale, la pressione internazionale ha una forza incredibile. Io sono testimone di una vicenda che mi era stata raccontata, ma poi ho vissuto direttamente. Nel periodo peggiore della dittatura cilena di Pinochet, una parlamentare italiana, Codrignani, fece un atto molto forte minacciando il governo cileno di rendere pubblico un certo veto, diniego, che il governo poneva alla Codrignani. Bastò la minaccia di rendere pubblico sulla stampa internazionale, ma di qui l'importanza di una stampa più libera, per risolvere un problema. Io personalmente, nell'86, mi sono recato in Santiago del Cile, nel periodo peggiore della dittatura, chiedendo di un colloquio con il vicepresidente di Allende, Clodomiro Almeida, che era stato ministro degli esteri, poi esule in Europa, in Russia, è ritornato per sfidare il regime, e ciò che mi consentì di ottenere questo lungo colloquio con Almeida fu la paura del governo cileno di uno scandalo internazionale. Per cui fare queste riunioni, ascoltare testimoni diretti che ci parlano di ciò che sta succedendo in Brasile o più generalmente in America Latina, non è solo importante per l'illuminazione personale che Marcelo Barros accende in noi, ma deve produrre iniziativa. Un'altra sua bella espressione, mi pare che sia questa: la libertà nella Chiesa, fuori dalla Chiesa, non è un concetto astratto, una virtù astratta. La libertà o è esercizio di libertà o non è nulla. Allora, ci ha raccontato in queste due ore che la libertà va esercitata con la parola, con gli atti, con le iniziative, con la diffusione, con la denuncia, con il sostegno dei movimenti popolari. Io sono particolarmente grato a Marcelo, sono contento di non essere andato all'altro impegno che avevo, sono felicissimo di averlo fatto per tanti motivi: per aver conosciuto lui, averlo sentito parlare, per il Brasile e l'America Latina, per voi che siete venuti qui. Ma fatemi aggiungere, indegnamente sono in questo momento il presidente della Fondazione Basso. Beh, io ho davanti agli occhi due persone. Uno è Lelio Basso e l'altro è Linda Bimbi, che se fossero stati qui oggi avrebbero riconosciuto in Marcelo Barros un autentico fratello rivoluzionario, intendendo per rivoluzionario non chi distribuisce violenza, ma chi distribuisce semi che fruttificano dentro ognuno di noi e nei movimenti collettivi. Grazie. Grazie tante, grazie di aver trovato del vostro lavoro. Io penso che quando siamo in Brasília è più facile vivere la solidarietà, più lontano come voi state qui, è meno facile. E dunque auguri per questo, per il vostro lavoro, contate su di noi, su di me, e principalmente manteniamo la speranza. que è fondamentale, no? La speranza non viene dall'analisi della realtà. La realtà non ci dà speranza. Viene dalla nostra fede, non religiosa, però fede nella vita, fede nell'uomo, fede nel progetto. E Gesù ha detto nel Vangelo, la verità si farà liberi. Capisce? E la verità è rivoluzionaria. La verità non è. Dunque, grazie tante e grazie a Claudia, no? Questa bravissima teologa e giornalista.